Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Dico buonasera, ma c'è davvero poco di buono nelle misure di sviluppo prese dal governo se, come il sottoscritto e l'ospite di oggi, che vi presenterò a breve, pensate che sia necessario dare una direzione precisa a questo sviluppo, una direzione che tenda verso un paese più efficiente, un paese meno dipendente dal punto di vista energetico e magari anche con un comparto edilizio avanzato. Di cosa stiamo parlando? Del nuovo sistema di detrazioni fiscali per le ristrutturazioni in campo edile per l'efficienza energetica sempre negli edifici che sta emergendo, che si sta configurando in questi giorni. Ne parliamo con Giampaolo Valentini della direzione dell'unità tecnica di efficienza energetica dell'ENEA, che praticamente è l'agenzia italiana per l'energia e l'ambiente, all'interno della quale si è occupato specificamente proprio di coordinare le attività intorno alla detrazione fiscale del 55%. Buonasera Valentini. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora Valentini, c'erano una volta le detrazioni del 36 per le riqualificazioni energetiche, uno rifaceva il bagno per intendersi, e quelle del 55 per l'efficienza energetica degli edifici, uno metteva il cappotto per esempio. Che cosa succederà invece se, sulla base dei decreti appena varati e delle bozze in circolazione non cambierà nulla? Allora, il decreto legge 22 giugno 2012, il numero 83, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno, settimana scorsa, quindi della settimana scorsa, e quindi è già immediatamente vigente, è già in vigore, ha disposto l'innalzamento delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie dal 36% al 50% a partire da subito, quindi a partire dal 26 giugno scorso. D'accordo. E contemporaneamente l'abbassamento delle detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico dal 55% al 50% a partire dal 1 gennaio 2013. Naturalmente portare dal 36 al 50% le detrazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici è una misura di sviluppo. Uno dice, benissimo, dovremmo essere tutti contenti. Invece no, dove sta il problema? Il problema è l'aver parificato le ristrutturazioni edilizie agli interventi di risparmio energetico. Va benissimo sostenere il settore edilizio in un momento come questo in cui c'è bisogno di far lavorare le persone, insomma. Esattamente, e fra l'altro non sono quelle, sono in crisi, quindi il problema sta nell'aver parificato questi interventi di ristrutturazione edilizia agli interventi di risparmio energetico che praticamente al momento sono ancora incentivati al 55%. Contro però un 50 e non più un 36. No? Esatto, e quindi praticamente come dire che c'è lo stesso incentivo già oggi. Poi c'è pochissima differenza. Qual è il problema? È che chi vorrà fare oggi un intervento di risparmio energetico molto probabilmente troverà più conveniente farselo riconoscere come ristrutturazione edilizia, perché tutto sommato qualsiasi intervento, faccio l'esempio di un cappotto interno per esempio, può benissimo passare come ristrutturazione e la procedura burocratica anche che serve per farsi riconoscere questi incentivi è molto più semplice per una ristrutturazione, non bisogna dimostrare nulla e quindi... Esattamente, mentre con il 55% occorre quantomeno avere come per esempio negli interventi di coibitazione un attestato di qualificazione energetica che deve rilasciare un tecnico abilitato, e quindi questo tecnico è una procedura molto, molto più complicata, non c'è dubbio, però questo potrebbe sembrare una semplificazione per i cittadini. Il problema è che noi poi dobbiamo documentare in Europa, visto che abbiamo degli obiettivi da raggiungere, queste operazioni di efficientamento energetico e così ce le perderemo, ma questo forse è il minore dei mali, perché il messaggio che si lancia parificando delle riqualificazioni assolutamente standard con delle riqualificazioni magari avanzatissime dal punto di vista energetico, mi sembra un messaggio assolutamente negativo, di appiattimento. Sicuramente questo vuol dire molto semplicemente affossare gli interventi di risparmio energetico, perché il fatto di avere parificato questi due incentivi significa anche abbandonare in un certo senso le installazioni più performanti, con maggiori livelli prestazionali. Facciamo un esempio, no? Se uno mette su un serramento con un vetro singolo accede al 50% di ristrutturazione, se uno mette su un vetro triplo, per intendersi, accede al 50% dell'efficienza energetica. Quindi, dopo aver parlato tanto all'industria e detto bisogna fare qualità, lanciamo esattamente il messaggio opposto. Esattamente, esattamente. Ha fatto perfettamente un esempio molto calzante. È vero che in questo momento si può ancora avere il 55%, ma quel 5% che si guadagna sarà però speso per le spese del tecnico che ci deve fare la riqualificazione energetica e anche per perdere un po' di tempo per compilare la scheda informativa che deve essere poi inviata all'Enea. Paradossalmente, quando saranno parificati, addirittura converrà proprio fare la ristrutturazione, perché l'altra costa solo di più e dà lo stesso identico beneficio. Senta, che cosa bisognerebbe fare per evitare questo problema? Perché è chiaro che in sé l'innalzamento delle detrazioni fiscali in un momento come questo fa comodo. Indubbiamente sì, però ripeto, ci sono degli effetti perversi in tutto questo che forse non sono stati ben calcolati, valutati adeguatamente dal governo quando ha varato il decreto legge. Mi lasci fare la battuta alla faccia del governo tecnico. Appunto. Tempo fa c'è chi disse che certi provvedimenti da tecnici li poteva fare anche mia nonna, dire questo, però questo è un provvedimento che sicuramente è sbagliato. Insomma, bisogna mantenere un differenziale. Se avessero fatto 40 e 60 sarebbero stati tutti contenti, se avessero fatto 50 e 70 staremmo saltando sui tavoli, ma 50 e 50, almeno nel medio-lungo periodo, rischia di fare veramente dei danni. Dal punto di vista dell'efficientamento energetico sicuramente sì, ne trarranno ovviamente beneficio le ristrutturazioni edilizie, quindi chi si vuole rifare la casa, si rifare il bagno, mettere al parquet, va benissimo questo, perché dal 36 si passa al 50, ma tutti gli altri adempimenti anche su scala internazionale che il nostro paese è chiamato a rispettare, 20-20-20, la direttiva europea 31, l'Energy Performance Building Directive, quelli a questo punto li saluti. Per strada. Grazie Valentini. Buonasera, grazie a lei e agli ascoltatori. Arrivederci. È tutto, a domani.